girava mezza nuda come una pantera. Per lei la natura era una cosa seria. L'hanno trovata uccisa, ammazzata in mezzo a un prato, violentata da coloro a cui aveva tanto dato. E non venitemi a dire, era solo una prostituta, una povera sgualdrina che godeva della vita. Quando il sesso diventa un sasso, ti ritrovi in fondo a un pozzo, e certi uomini al posto del cazzo hanno un cervello corto corto. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore. Nel cantiere a faticare, sotto il sole e sotto la neve, per due soldi a lavorare, in nero per un padrone che se ne frega della legge, che se ne frega della protezione. E tanti muoiono affogati da una misera ambizione. Lui aveva un cuore d'oro, lavorava come un mulo, dalla sera alla mattina, senza risparmiare la schiena. È stato un incidente, un banale fatto costante, a morire sono sempre gli stessi, abbandonati in mezzo ai fossi. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore. Poi ci sono i finti ricchi che devono dimostrare al mondo che sono furbi, e a te ti fanno vedere stelle, mare, monti, ma sono più poveri dei poveri e non hanno in fondo al cuore un minimo di pudore. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore. C'è una parte di umanità che è sempre dimenticata dalla storia, in ogni storia la loro vita è ignorata. Poi se la guerra scoppia, allora ci si ricorda che potrebbero morire per la patria una sola volta. Ma il peggio sono gli indifferenti che con il giornale ci si puliscono il culo, e neanche col cannocchiale si occupano della sofferenza di chi subisce ogni giorno le ingiurie dei prepotenti, di uomini senza denti. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore. L'hanno licenziato perché aveva lavorato per 30 anni, dato fiato, sempre onesto, obbedito, il meglio di se stesso. Oggi non conta nulla, oggi si fa la corsa a pupazzi di paglia. Gli aspiranti al successo cercano gloria dentro al cesso, sono pronti a tutto solo per apparire. Si vendono la madre, il padre e anche i nonni, il cuore col poco di dignità che hanno di figli. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore. Leggendo tra le righe scopro solo ferite aperte come foci di un fiume insanguinato. Se questa è l'umanità, siamo messi male. Qui bisogna voltare pagina e di certo cambiare giornale. Io ricordo il suo sorriso, il suo inferno, il suo paradiso, la sua voglia di amare, le sue ferite in fondo al cuore.